Salve a tutte e tutti, questa è la nuova puntata di Ururu, come al solito, ogni venerdì sera alle 9:30. Uru suoni musica e notizie dall'Africa, ma oggi più che notizie, un focus seppur breve su i migranti e le migrazioni in Africa. A differenza rispetto a quanto si può pensare o a quanto sbandierano e titolano giornali, mass media e politicanti vari, in realtà il flusso di migranti all'interno del continente africano è molto maggiore di flusso dei migranti che si muove, diciamo, dei migranti che si muovono dal continente africano ad altri continenti, specialmente verso l'Europa. L'Africa nei secoli è stata una terra appunto di migrazioni e c'è un consolidato diritto all'accoglienza, tant'è che circa 2/3 dei migranti africani si muovono all'interno del loro continente. Quindi ecco, questo sarà un po' il focus, la notizia di questa trasmissione un po' particolare di Uru, sebbene nonostante questa particolarità ci sia anche oggi suoni e musica, e appunto partiamo subito con una canzone famosissima. In questo caso si tratta di un duetto, Salif Keita, il grande cantante maliano, insieme a Cesare Evora, una se non la principale esponente della musica capoverdiana. La canzone si intitola Gli Amori e l'abbiamo scelta proprio come inizio della trasmissione perché ha una particolarità, e cioè che è cantata in quattro lingue: francese, un po' di italiano, portoghese e malinché o bambarà, insomma sostanzialmente quella che è la lingua principale, della principale etnia maliana. E appunto la parte in portoghese è cantata da Cesare Evora, e questo pezzo è tratto dal disco da Mufu, il primo disco del nuovo millennio di Salif Keita, e che si intitola come il locale che Salif Keita aveva aperto a Bamako proprio per imprimere una svolta alla scena musicale di Bamako. È un disco che lascia di stucco perché fin dalla prima traccia, che è appunto Gli Amori, si percepisce Mufu è senz'altro il disco più bello, e fino a quel momento era stato registrato dall'artista albino. E Gli Amori, che è appunto il brano in cui si apre il disco, è un incredibile duetto vocale con la regina della morna capoverdiana, appunto Cesaria Evora. È un mid-tempo davvero splendido, un'atmosfera dominata dalle fisarmoniche e da piccole percussioni. È sostanzialmente una canzone a cavallo tra le sonorità maliane e l'ambientazione e le magie lusofone. Importante anche il testo, specialmente la parte cantata da Cesaria Evora, che è quella cantata appunto in portoghese, e che sostanzialmente si rifà alle lotte e alla resistenza dei popoli africani, tant'è che a un certo punto appunto si sente Cesaria Evora che dice Nostro amor sta vincansando de surluta e resistenza, e cioè il nostro amore non è stato mai vinto e non si è mai stancato, perché si basa sulla lotta e la resistenza, e de surluta e resistenza per sopravvivere nella tormenta, e cioè questa lotta e questa resistenza è per sopravvivere nelle tormente della vita. Ecco appunto Gli Amori, che è il primo pezzo in cui apriamo questa trasmissione di Uhuru. Amore, mi libera. FIE NLA la bilila too much. Na mo ko fie nero sila don kilile la ila kola aha ilene la muluku moso ni na mo ko fie soro fale mo sonyo mana osikote no no no ne kona de ilele le fe je t'aime mi amore vedi perfie e nele arabi. Não também viver sem medo e confiança, não era mais visão. Olhar de nós criança, tá torna a brilhar de inocência. E na noite se esgritaiada, temporal talvez tá mainã. Na brandura e calmaria, nós amor tá bem descansar. Disse luta e resistência. Para sobreviver nesta tormenta, na brandura e calmaria, nós amor também descansar. Disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta. Je t'aime, mi amor, e vedi per fie, e nele arabilila, tu mat. Boinha desafio, e demais. Je t'aime, mi amor, e vedi per fie. Boi tudo minha fé na paz. Kodoyini sanka noi kana wakanto ede la muluku moso yo sakene moso. Je t'aime mi amor e vedi per fie e nele arabila too much. Ne t'en va pas chéri. Je t'aime mi amor e vedi per fie e nele arabila. Sim, um tem feito. Não tá bem amar sem medo e confiança. Não era mais risão. Olhar de nós criança, tá torna a brilhar de inocência. E na mente se esgritaiada, temporal talvez tá mainá. Je t'aime, mi amore, veni per fie, e nele arabilila, too much. Je t'aime, mi amore, veni per fie. Christmas. Allora, ricordiamo, state ascoltando Uru, e vi ricordiamo i social della radio, il sito wombat.noblogs.org, Twitter, ci potete seguire su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, su Facebook a facebook.com/radio-wombat-firenze, e poi potete contattarci alla posta per email a postawombat@insiberia.net. Vi vogliamo anche ricordare che Radio Wombat ha indetto un concorso per la creazione del proprio logo. Tale logo è disegnato ad essere utilizzato come segno distintivo della radio su tutti gli strumenti di comunicazione, cartacea e non, adesivi, manifesti, sito web, Twitter, eccetera. Il logo deve essere inedito e deve essere suscettibile di riduzione e ingrandimento senza perdere forza comunicativa. Deve essere presentato in formato TIFF, sia a colori che in bianco e nero. I progetti devono essere mandati entro la mezzanotte di domenica 22 febbraio alla nostra mail, quella che ho ricordato adesso, cioè postawombat@insiberia.net. Per ulteriori informazioni potete cercare sul nostro sito wombat.noblogs.org. E rispetto a quello che dicevamo precedentemente, cioè un focus seppur breve sulle migrazioni in Africa, partiamo da un dato drammatico, e cioè che Ali Musa, immigrante morto nell'incendio dell'Est Ayazzone, un'occupazione appunto effettuata da migranti, in particolare somali, per rifugiarsi, per scampare diciamo, dal freddo e comunque avere un letto e un tetto sopra la testa, appunto Ali Musa è morto perché è voluto rientrare all'interno dell'edificio ormai in fiamme per recuperare i documenti che forse gli avrebbero permesso, dei documenti di carte, forse gli avrebbero permesso il ricongiungimento con la moglie. La moglie che appunto è in un campo di rifugiati nel nord del Kenya. Non sappiamo se il campo è Dadaab, ma sappiamo però che nel nord del Kenya ce ne sono tantissimi di questi campi di rifugiati, in particolare accolgono migranti somali, ma anche etiopi ed eritrei, e che Dadaab è di fatto un enorme campo profughi. Si calcola che fino a poco tempo fa vi abitavano 600, in condizioni precarie, 650.000 persone. Una base dell'organizzazione dell'ONU per i rifugiati, e che un campo circonda le città di Agadera, Dagalei e Cambios. L'organizzazione umanitaria CARE, che è il partner che gestisce il campo per conto dell'organizzazione dell'ONU per i rifugiati, dà delle cifre, e cioè gran parte dell'economia delle tre città che circondano il campo è incentrata su servizi ai residenti campo profughi, del campo profughi, che coprono complessivamente una superficie totale di 50 km quadrati, e che a partire dal maggio 2015 è diventato di fatto la quarta città più abitata del Kenya, sicuramente cioè dopo Malindi, Mombasa e Nairobi, e che i cinque campi che lo compongono costituiscono collettivamente, cioè tutti insieme, l'insediamento di rifugiati più grande del mondo. Ma ciò non deve stupire, perché tutta l'Africa accoglie migranti. Si parla sempre di africani come emigrati in Europa, ma quanti sono i migranti in Africa stessa? Nel panorama mondiale delle migrazioni l'Africa non è il continente coinvolto in maniera più consistente dal fenomeno. Inoltre l'Africa non è il maggior, tra virgolette, produttore dei migranti, mentre invece il continente ospita la maggior parte dei rifugiati e quello che soffre maggiormente del fenomeno degli sfollati interni. Dobbiamo tenere presente, tra l'altro, che qui si sta parlando di paesi relativamente abitati, sicuramente non abitati quanto i paesi europei, che quindi la grande massa di profughi che si riversa nei paesi circostanti è percentualmente, rispetto alla popolazione che ci vive, molto maggiore di quella che è in qualsiasi paese dell'Europa. E circa il 9% dei migranti a livello mondiale si trovano in Africa, oltre 30 milioni di persone su circa approssimativamente 220 milioni. A queste cifre vanno considerate anche non africani immigrati nel continente, perché noi si pensa che, o meglio, ci vogliono far pensare che sono solo i migranti africani, cioè dall'Africa ci sia soltanto un'emigrazione, ma in realtà c'è anche un'immigrazione dai paesi asiatici ed europei, cinesi, coreani, Bangladesh, bengali, pakistani, francesi, portoghesi. I cinesi si avvicinano a alcuni milioni, mentre invece, e questo è un dato che deve far riflettere, molti giovani europei vanno in Africa per opportunità lavorative. Negli ultimi anni sono stati circa 170.000 gli europei che si sono trasferiti in Africa, di cui 120.000 nell'Africa francofona. È vero che la percentuale rispetto ai migranti africani che arrivano in Europa è molto minore, però è un dato che va sottolineato, perché appunto ci sono anche migrazioni dall'Europa all'Africa, e chi dall'Europa va all'Africa non è sicuramente accolto in una maniera così molto spesso terribile come accolto in Europa stessa. A confronto di queste cifre va detto che gli africani subsahariani, cioè al di sotto, non provenienti dall'area del Maghreb, attualmente migrati fuori dal loro continente, sono circa 5 milioni, e quindi l'immagine di un'invasione, di un pericolo nero, di un pericolo di un riversamento di una massa di migrati africani in Europa è completamente falsata. Continuiamo con la musica, e continuiamo con una canzone che parla appunto di migrazioni. Stiamo parlando di Cesária Évora, con uno dei suoi pezzi più famosi, cioè Saudade. È un pezzo che descrive con grande semplicità la nostalgia degli emigranti capoverdiani che sono emigrati per secoli, in particolar modo fin dal 1800, in particolar modo verso l'Europa, ma verso anche gli Stati Uniti. E appunto questa canzone, Saudade, si riferisce all'emigrazione di una piccola parte di popolazione, ma molto da un punto di vista numerico, ma molto grande dal punto di vista percentuale, che si è spostata da queste piccole isole, da Capo Verde. Ascoltiamo questo pezzo, Saudade, di Cesária Évora. Esse caminho passando-me. Saudade. Soldat, dis mia terra se n'inclau. Soldat, dis mia terra se n'inclau. Que mostraves caminho longe, que mostraves caminho longe, esse caminho passando me. Mostraves caminho longe, que mostraves caminho longe, esse caminho passando me. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade. Saudade, desse minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade. Minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem enclau. E sempre continuando con quello, riallacciandoci a quello che dicevamo precedentemente, cioè delle migrazioni degli africani all'interno del loro continente, dobbiamo anche dire che gli africani subsahariani migranti si dirigono principalmente verso altri paesi africani. Soltanto i migranti del Maghreb, cioè da Marocco, Tunisia, Algeria, si trovano in prevalenza in Europa. C'è da dire anche che il movimento migratorio continentale si caratterizza per movimenti interregionali e intracontinentali, cioè sempre all'interno delle varie regioni e dei vari stati africani. In realtà i flussi internazionali africani sono essenzialmente all'interno del continente e secondo vari studi, in particolare a parte delle organizzazioni non governative, analisi sul terreno e statistiche effettuate confermano che i migranti subsahariani rappresentano una minoranza del totale delle migrazioni verso i paesi nord-occidentali. Ad esempio, su quasi 5 milioni di egiziani migrati, oltre il 70% in altri paesi arabi. E quasi milione di ghanesi si trova essenzialmente in Africa occidentale, così come la maggioranza dei 4 milioni di di maliani all'estero, di 500.000 di nigerini e di 3.500.000 di migranti nigeriani. In sostanza l'Africa si presenta come un continente che è stato a lungo spopolato e che è ancora alla ricerca di un equilibrio demografico, è tutto sommato molto più accogliente di ciò che si pensi, tant'è che per esempio nel periodo della guerra in Ruanda e in Burundi tutti i rifugiati che scapparono da Ruanda e da Burundi erano dislocati in particolarmente in Tanzania, cioè e che la Tanzania, nonostante sia un paese molto povero ed essenzialmente spopolato o comunque spopolato nella parte di territorio, nella parte della nazione che confina con Ruanda e Burundi, accolse più di 1.000.000 di rifugiati. Allora, adesso cambiamo un attimo discorso e diciamo le iniziative sono presenti in questi giorni. Domani sera al Nest Emerson ci sarà una serata swing, l'Indie Hop. Martedì 24 gennaio alle 18 ci sarà un'assemblea cittadina su migranti e diritto all'accoglienza presso la nuova occupazione dei migranti che erano occupanti alla Iazzone. L'occupazione, ricordiamo, è in via Spaventa, che è una traversa di viale Don Minzoni. E poi invece sabato 28 gennaio, sempre a Nest Emerson, ci sarà la milonga del tango sognato. Volevamo anche dirvi che ci sono due nuove trasmissioni nel nostro menu di Radio Wombat, ambedue saranno di mercoledì, una alle 11 la mattina, Coccoli al silicio, e cioè inserto su diavolerie tecnologiche e le idee che ci stanno dietro, e sempre il mercoledì alle 19 invece la nuova trasmissione sul Time, sul Not in Soul e tutto quello che gli sta intorno. Il prossimo pezzo è di un'altra grande cantante famosissima in tutto il mondo africana, in questo caso sudafricana, Miriam Makeba. Il pezzo è tratto dall'LP Homeland e si intitola Africa is where my heart lies. Abbiamo scelto questa canzone proprio per dare ancora più significato a questa trasmissione e per far capire come gli africani siano veramente attaccati alle loro radici, tant'è che la stessa Miriam Makeba, ad esempio, non appena pure esiliata dal governo sudafricano, dal governo dell'apartheid, negli anni 80-90, non appena ci fu la liberazione di Nelson Mandela e le prime elezioni libere in Sudafrica, ritornò nel proprio paese e ricominciò a incidere dischi direttamente in Sudafrica. Il prossimo pezzo è appunto Africa is where my heart lies, tratto dall'LP Homeland, un LP registrato nel 2000, Miriam Makeba. Sunset lights up the sky, a magical moment of life passing by, romantic rhythms that beat through the night, Mother Nature's gift for you and I. Where my heart lies, across the ocean in upon our land, breathing life for the creation of man, holding treasures of beauty given for all, the African dream that touches the soul. You know that. Riepiloghiamo un attimo i dati che abbiamo detto finora. Cioè, allora, secondo l'Agenzia ONU per i rifugiati, nel 2015 i migranti forzati, cioè rifugiati e sfollati, nel mondo sono circa 65 milioni. Il flusso dei migranti dall'Africa all'Europa non ha mai superato alcune centinaia di migliaia di persone l'anno. Mentre le migrazioni africane interne, per cause politiche, economiche e ambientali, coinvolgono circa 30 milioni di persone. Di questi, almeno 3 milioni sono rifugiati, principalmente da Eritrea, Somalia, ma anche intorno al lago Chad per l'insorgenza del gruppo Boko Haram. Circa 8 milioni, invece, sono rifugiati ambientali, che devono cioè spostarsi per siccità, carestie e deforestazione, che spingono le persone a migrare in cerca di risorse idriche. Tra i paesi più colpiti ci sono Niger, Chad e Sud Sudan. Il prossimo pezzo è di Boubacar Traoré, che a differenza degli autori dei pezzi precedenti è molto meno conosciuto, se non altro è meno conosciuto al di fuori della regione, del paese, il Mali, in cui vive e in cui ha iniziato a suonare. Boubacar Traoré è un cantante, autore e chitarrista. È curiosamente soprannominato Karkar, che in lingua bambarà significa l'uomo che dribbla, in riferimento al suo, alla sua passione per il calcio, ed è un soprannome che gli fu dato fin da piccolo. Traoré ha iniziato a suonare fin dai primi anni 60 appunto la chitarra, e ha sviluppato uno stile unico che si avvicina al blues americano e alla musica araba, con strutture pentatoniche che si trovano nell'Africa dell'Ovest, nella regione culturale dei Mandi. È una superstar in Mali, seppur non tanto conosciuto o non conosciuto all'estero, tant'è che è presente in diversi filmati, in diversi film, in diversi documentari realizzati sia dall'autore belga Liev Joris che dal regista francese Louis Manchette. Appunto è presente in questi due documentari che ambedue trattano della scena blues maliana, in particolare quello di Louis Manchette, che si intitola Blues Road Movie o Al Cœur de Blues, cioè Al Cuore del Blues. Il pezzo che vi facciamo ascoltare si intitola Mouso Teke Soma Ye, che è appunto cantato in lingua, anche questo in lingua bambara, che è appunto la lingua dell'etnia principale del Mali. Boubacar Traoré con Mouso Teke Soma Ye. sumale bangela musote ke sumale naluyo nyekumala naluma Bangela Musote ke sumale na luyo Nyekumala na luma na mama nyi e kwa mama nyi Allora, ricordiamo ancora una volta i nostri social, e cioè il sito wombat.noblogs.org, dove potete trovare tutto l'elenco delle trasmissioni di Radio Wombat con l'orario in cui vengono mandate in diretta. Ci sono poi, c'è anche la possibilità di seguirle in streaming, andando appunto su streaming. E poi c'è la sezione podcast, dove potete trovare e scaricare o ascoltare in differita tutte le trasmissioni fatte finora della radio. E il resto dei social sono Twitter, twitter.com/radiowombatfirenze, facebook.com/radio-wombat-firenze, la nostra email per comunicare con noi è postawombat@insiberia.net. Ricordiamo anche che da questa settimana ci sono le repliche di due trasmissioni, come abbiamo detto precedentemente, e cioè Silicon Coccoli e l'inizio di due nuove trasmissioni, e cioè Coccoli al Silicio e Soul Time di mercoledì, uno alla mattina alle 11 e uno il mercoledì alle 19. E le repliche appunto di queste due trasmissioni, ma dalle prossime settimane inizieranno anche le repliche di tutte le trasmissioni di Radio Wombat, verranno replicate due volte a settimana, e per sapere gli orari delle repliche, anche in questo caso visitare il sito, il palinsesto del sito, dove via via verranno specificati gli orari delle repliche. Il prossimo pezzo è di Candia Coyote, anche in questo caso una cantante maliana, con la particolarità che Candia è una celimuso, cioè un griot donna, femminile, una particolarità rara in Mali e in generale in tutta l'Africa. Ricordiamo, i griot sono appunto e le celimuse sono quei cantanti e quelle cantanti che tramite le canzoni portano avanti una tradizione orale di leggende, di racconti, che altrimenti sarebbe o verrebbe persa, visto che la parola scritta negli anni, nei secoli passati non era non era conosciuta, insomma non c'erano libri, non c'era un alfabeto ben preciso e via dicendo. Quindi l'importanza di questi griot maschile e Chelimousse femminile. Candia Coyote è inoltre una suonatrice di cora, che a volte è chiamata anche la pericolosa, la grande vedette Madienne, proprio perché Candia Coyote ha una musica dance emozionale e ipnotica, e sebbene conosciuta relativamente poco fuori dall'Africa, è molto conosciuta nel suo paese in Mali, ed è poco conosciuta fuori dai paesi africani per la difficoltà di reperire le sue registrazioni. Sostanzialmente ha vissuto quasi sempre a Kita, che è la sua città di origine e che è conosciutissima anche per le canzoni d'amore, proprio appunto questa città. E tra l'altro Candia ha registrato nell'83 due dischi in vinile, che sono sostanzialmente tra le ultime incisioni di questa cantante maliana. Vi facciamo sentire un pezzo tra i più conosciuti, si intitola Sano Ognole, e che appunto fa parte del repertorio della musica tradizionale maliana. Sanu ya mule, sanu mari ko na jata yo. poteva mancare in una trasmissione dedicata all'Africa, suoni, musica, ma anche fatti, no, appunto non poteva mancare l'accenno alla Coppa d'Africa di calcio che si sta tenendo quest'anno in Benin. Tutti ogni anno dispari e quindi ogni due anni si svolge la massima rassegna continentale per nazioni di calcio che viene ospitata periodicamente, ogni edizione viene ospitata da paesi diversi, quest'anno appunto è stata in Gabon e vi leggiamo le classifiche per come si stanno dando adesso della Coppa d'Africa. Ricordiamo che questa è la fase finale a cui hanno avuto accesso 16 nazioni e che la fase finale vede quattro gironi divisi di quattro squadre, di cui le prime due accedono al turno successivo che è a eliminazione diretta. Per il girone, per il gruppo A, che vede il Camerun in testa con 4 punti, seguito da Burkina Faso e Gabon, che è appunto la nazione ospitante, con 2, e la Guinea-Bissau con 1 punto. Sono state giocate 2 partite, manca la terza partita del girone, che appunto deciderà le due squadre che accederanno ai quarti finale. Nel gruppo B, in cui sono presenti il Senegal, Tunisia, Algeria e Zimbabwe, il Senegal con 6 punti dopo 2 partite, cioè a punteggio pieno, è già qualificato alla fase successiva. La Tunisia segue il Senegal con 3 punti, mentre invece l'Algeria e lo Zimbabwe soltanto 1 punto, e qui c'è appunto una delle più grosse sorprese fino a questo momento la Coppa d'Africa, cioè l'Algeria si ritrova soltanto con 1 punto, pur essendo la nazione pronosticata tra le vincitrici alla vigilia. Nel gruppo C è in testa la Repubblica Democratica del Congo con 4 punti, seguita dal Marocco con 3 e dalla Costa d'Avorio, anche qui un'altra sorpresa perché insieme all'Algeria è il team calcistico favorito per la vittoria finale. La Costa d'Avorio è solo terza al momento e quindi non accederebbe alla fase successiva, è terza con 2 punti, mentre invece il Togo fanalino di coda con 1 punto. Nel gruppo D si è giocata soltanto una partita che ha visto la vittoria del Ghana sull'Uganda e il pareggio tra Mali ed Egitto, quindi Ghana 3 punti, Mali ed Egitto 1 punto, Uganda a 0 punti. Allora, finiamo stasera con una cantante famosissima e dalla voce meravigliosa, sempre del Mali. Lei è nata nella regione di Koulikoro, nel sud. Il suo maestro è stato Ali Farka Touré, che abbiamo sentito qualche puntata fa. La sua musica, come quasi sempre in Africa, parte dalla musica tradizionale e poi viene miscelata con ritmi più moderni. I suoi testi sono impegnati, ad esempio l'ultimo album che è uscito l'anno scorso è un omaggio ai migranti, ma spesso parla anche del ruolo della donna in Africa, fino a toccare comunque tutti i temi sociali. La sentiamo con Muna Dassa, Rokia Traoré. Bilai maraka banabila illa doka pange balubo ke wollo sinta foda were pola mo muso do dendi e da were pola do teni nun senge nasa teni nun torola kaden nun senge sa fu deni nun nyani na te amasa ma jombeni di Ururu finisce qui. Ciao a tutte e tutti, vi aspettiamo venerdì prossimo sempre alle 9:30. Ciao anche da parte mia, ricordiamo l'appuntamento per Ururu, lo ripeto ancora una volta, venerdì prossimo alle 21:30 su Radio Wombat. Ricordate wombat.noblogs.org, oltre allo streaming anche i podcast delle varie trasmissioni. Ciao a tutti.